Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Prima puntata. Nel 1939, 13 anni prima della mia nascita, Maya Devi, la zia di mio padre, andò in Inghilterra con suo marito e suo figlio Tridib. Mi sorprende la naturalezza con cui il nome esce dalla mia penna, perché non l'ho mai chiamata Maya Devi, non a voce alta in ogni caso. In quanto unica sorella di mia nonna, per me è stata sempre soltanto Maya Takuma. Eppure, per quanto indietro io possa andare col pensiero, nel segreto della mia mente l'ho sempre conosciuta come Maya Devi, come fosse una straniera famosa, una stella cinematografica o un personaggio politico di cui avessi visto la fotografia sul giornale. Forse ciò era dovuto semplicemente al fatto che la conoscevo assai poco, perché non veniva spesso a Calcutta. Sembra una spiegazione convincente, ma so che non è vera. La verità è che io non volevo considerarla una parente. Avrebbe significato sminuire lei e la sua famiglia. Non potevo costringermi a pensare che il valore che essi rivestivano ai miei occhi potesse essere ridotto a un fatto così arbitrario e irrilevante come una parentela di sangue. Maya Devi aveva 29 anni quando partirono e Tridib 8. Col passare degli anni, pur non riuscendo a ricordare quando accadde, più di quanto non possa ricordare quando imparai ad allacciarmi le stringhe delle scarpe, sono arrivato a pensare che avevo 8 anni anch'io quando Tridib mi parlò per la prima volta di quel viaggio. Ricordo che feci un grosso sforzo per immaginarlo alla mia età, per ridurre la sua statura alla mia, per togliergli gli occhiali che costituivano una parte così essenziale di lui da farmi pensare che fosse nato con quelli. Alla fine, in mancanza di altri punti di riferimento, decisi che doveva essere stato simile a me. Ma la nonna, quando la interrogai, mi contraddisse immediatamente. La nonna disapprovava Tridib. «È un fannullone, un perdigiorno!» Mi capitava di sentirla dire ai miei genitori, non combina nulla di buono, vive alle spalle di suo padre. A me, diceva soltanto con una piccola smorfia sardonica delle labbra, non voglio vederti bighellonare in giro insieme a Tridib. Tridib spreca il suo tempo. Non sembrava così terribile, ma in effetti, conoscendo il linguaggio di mia nonna, non si poteva dire nulla di peggio di una persona. Per lei il tempo era come uno spazzolino da denti, se non viene usato, ammuffisce. Quanto a lei, si era preoccupata di tenere il nostro piccolo appartamento sgombro di ogni cosa che ci potesse incoraggiare a lasciar ammuffire il nostro tempo. Nessuna scacchiera o mazzo di carte oltrepassò mai la soglia di casa. Da qualche parte c'era una scatola di ludo piuttosto malconcia, ma ero autorizzato a usarla solo quando ero ammalato. Disapprovava persino che mia madre ascoltasse le commedie radiofoniche pomeridiane più di una volta alla settimana. In casa nostra tutti lavoravamo sodo, qualunque cosa facessimo. La nonna insegnava in una scuola, io svolgevo i miei compiti, mia madre si occupava delle faccende domestiche, mio padre era condirettore di un'azienda che commerciava in gomma vulcanizzata. Al nostro tempo non veniva data la minima possibilità di ammuffire. Proprio per questo io adoravo ascoltare Tridib. Sembrava che non facesse alcun uso del suo tempo. Tuttavia, il suo tempo non aveva odore di muffa. A volte capitava che Tridib facesse un salto da noi senza preavviso. La nonna, con tutta la sua riprovazione, era sempre felice di vederlo, in parte perché a modo suo gli voleva bene, ma soprattutto perché Tridib e la sua famiglia erano i nostri soli parenti ricchi e la nonna era lusingata l'idea che allungasse la strada per venire a farle visita. Naturalmente sapeva, anche se non sarebbe mai stata disposta a riconoscerlo, che veniva a curarsi lo stomaco. La verità era che l'apparato digerente di Tridib era un disastro, rovinato dai fiumi di tè nero che beveva nei chioschi ai margini delle strade durante i suoi vagabondaggi nella zona sud di Calcutta. Di tanto in tanto un rumoreggiare delle viscere lo coglieva all'improvviso in mezzo alla strada, costringendolo a correre al gabinetto pubblico più vicino. Questa situazione c'era nota come il gastrico di Tridib. A intervalli di pochi mesi succedeva che suonasse il campanello e chi di noi andava ad aprire trovava Tridib appoggiato alla parete, le gambe incrociate strette, la fronte coperta di sudore. Tuttavia non entrava subito. C'era una rigida etichetta da rispettare in queste occasioni. La nonna e i miei genitori si riunivano sulla porta di casa e, ignorando i suoi brividi, cominciavano a chiedergli notizie delle attività e degli spostamenti della sua famiglia. E Tridib, a sua volta, con un sorriso tirato, si informava della loro salute e della mia. Poi, finalmente, appurato con soddisfazione di tutti che era venuto per una visita di famiglia, entrava precipitandosi direttamente nella stanza da bagno. Ne riemergeva più tardi con il consueto piglio disinvolto e controllato. Sprofondava nel divano buono e la visita di famiglia aveva inizio. La nonna si sarebbe affrettata in cucina per preparargli un omelette, un piccolo scarabocchio duro come il cuoio, cosparso di peperoncino, disteso minacciosamente nel piatto che avrebbe sfidato silenziosamente il suo gastrico. A volte, osservandolo mentre masticava faticosamente la sua omelette, la nonna gli domandava: «Come va il tuo gastrico?» oppure «Sta meglio ora il tuo gastrico?» Tridib si limitava ad annuire distrattamente e a cambiare argomento. Non gli andava di parlare della sua digestione, unico segno visibile di pudore che mi sia mai capitato di scorgere in lui. Avendo sempre sentito mia nonna usare quella parola come un nome proprio, crebbi nella convinzione che gastrico fosse il nome di un organo particolare di Tridib, una specie di dente dolorante germogliato dal suo ombelico. Naturalmente non ebbi mai il coraggio di chiedergli di mostrarmelo. Malgrado l'omelette speciale, la nonna non gli avrebbe comunque concesso di trattenersi a lungo. Lo riteneva capace di esercitare la sua influenza a una certa distanza, come un pianeta malefico. Il padre di Tridib era un diplomatico, un funzionario del Foreign Service. Lui e Maya Devi erano sempre via, all'estero o a Delhi. A intervalli di 2 o 3 anni capitava che trascorressero un paio di mesi a Calcutta, ma non di più. Dei 2 fratelli di Tridib, Jatin Kaku, il maggiore, di 2 anni più vecchio di Tridib, era un economista delle Nazioni Unite. Anche lui era sempre via, in Africa o nel sud-est asiatico, con la moglie e la figlia Ayla, mia coetanea. Il terzo fratello, Robby, era molto più giovane degli altri 2. La madre lo aveva messo al mondo dopo numerose gravidanze non portate a termine ed era vissuto con i genitori nelle loro molteplici destinazioni fino a quando, a 12 anni, era stato spedito in collegio. Tridib era dunque l'unico della famiglia che avesse trascorso gran parte della sua vita a Calcutta. Per anni aveva vissuto nella spaziosa casa a vita di Bellinganj Place, accanto a una nonna che diventava sempre più anziana. Mia nonna sosteneva che era rimasto a Calcutta solo perché non andava d'accordo con il padre. Ciò costituiva motivo di biasimo, non tanto per il disaccordo con suo padre, del quale alla nonna importava poco, bensì perché aveva permesso che una cosa del genere interferisse con le sue prospettive e la sua carriera. Per la nonna, simpatie e antipatie erano ben poca cosa se confrontate con il problema di trovare la propria strada nel mondo. Per quanto la riguardava, Tridib, chiudendosi in quella vecchia casa insieme a sua nonna, si era comportato in modo irresponsabile più che stravagante e aveva dimostrato una sostanziale fragilità e frivolezza di carattere. Forse la nonna avrebbe cambiato idea se Tridib si fosse sposato e sistemato. Senza dubbio lei avrebbe potuto trovargli una moglie ricca, ma ogni qualvolta gli suggeriva una simile soluzione, lui si limitava a ridere. Naturalmente, qualche volta arrivava a riconoscere che Tridib non era proprio un fannullone. Stava infatti preparando un dottorato in archeologia, qualcosa che aveva a che fare con i luoghi legati alla dinastia bengalese dei Sena. Ciò comunque non era sufficiente a dargli credito agli occhi di mia nonna. Essendo anche lei un'insegnante, aveva una venerazione eccessiva per qualunque lavoro accademico. Vedeva la ricerca come un pellegrinaggio che dura una vita intera e si conclude con una cattedra universitaria illustre e un busto di marmo nei corridoi dell'Università di Calcutta o della Biblioteca Nazionale. Sarebbe stato piuttosto comico immaginare la testa di un irresponsabile come Tridib installata in quegli augusti corridoi. Parte della diffidenza di mia nonna era dovuta al fatto che aveva visto qualche volta Tridib agli angoli delle strade intorno a Gole Park, dove noi abitavamo. La nonna detestava i giovanotti che passavano il loro tempo tra i baracchini e i chioschi del tè in quei paraggi. Tutti disgraziati, diceva con disprezzo. Pensa alle loro povere madri disperate in mezzo al sudiciume e affamate. In realtà Tridib veniva di rado, non più di una o due volte al mese. Di solito ero informato del suo arrivo. Veniva ad avvertirmi Natu Chao Bei, il proprietario del chiosco di Pa'an all'angolo della strada, oppure il mio amico Montu, che dalla finestra della stanza da bagno riusciva a vedere il fondo della strada, o qualcuno della bancarella di libri usati. Tutti sapevano della mia parentela con Tridib. Adesso, quando mi capita di passare nelle vicinanze di Gole Park, mi chiedo se tutto ciò potrebbe succedere al giorno d'oggi. Non lo so. Non saprei dire. Quel mondo è finito per me. I troppi anni vissuti all'estero mi escludono. Montu è partito per l'America anni fa e ho sentito che Natu Chao Bei è tornato a vivere a Benares e ha aperto un albergo. Di solito mi capitava di sentir dire che Tridib era da quelle parti mentre rientravo dalle nostre serali partite di cricket nel parco. La partita di cricket era l'unica cosa per cui mia nonna non lesinava il tempo che dovevo sottrarre ai compiti. Al contrario, insisteva perché corressi nel parco vicino al lago, che io lo volessi o meno. Non puoi costruire un paese robusto, era solita dire spingendomi fuori di casa, se non costruisci un corpo robusto. Mi controllava dalla finestra per essere sicura che corressi dritto nel parco. Tuttavia, se mi capitava di sentir dire che Tridib era in circolazione, tornavo indietro aggirando il parco lungo i viali posteriori. C'era sempre qualcuno in grado di dirmi dove si trovasse. Era una figura familiare tra la folla mutevole e ciarliera di studenti, calciatori dilettanti, impiegati di banca e piccoli politicanti che gravitava intorno a quel tratto di strada appassionato di conversazioni tra Gari Hat e Gole Park. Allora non mi domandavo perché fosse così popolare o comunque conosciuto. Consideravo la cosa naturale e gli ero riconoscente per i piccoli privilegi che la sua presenza mi garantiva in quelle strade. Ricevere un dolce in più da un negoziante di sua conoscenza. Essere salvato durante una rissa nel parco da qualche giovanotto amico suo. Ma per la verità, oggi mi appare piuttosto misteriosa la ragione per cui lo sopportavano. Non era in ogni caso uno di loro, non viveva neppure nel quartiere e spesso non aveva granché da dire. Talvolta, però, se era dell'umore giusto e se capitava che qualcuno dicesse una cosa che faceva breccia nella sua vasta riserva di cognizioni astruse, cominciava a dissertare sui più svariati argomenti: le stele mesopotamiche, il jazz dell'est europeo, i costumi delle scimmie arboricole, il teatro di García Lorca. Sembrava non ci fossero limiti alle cose di cui sapeva parlare. In quelle serate, guardando le facce attente dei suoi ascoltatori e scrutando il suo volto magro e stizzoso, i capelli arruffati i luminosi occhi neri che scintillavano dietro le lenti cerchiate d'oro, avrei potuto scoppiare d'orgoglio. Forse lo sopportavano soltanto perché non era uno di loro, perché era diverso. In parte anche perché erano un po' intimoriti da lui, dalla sua lingua, che a volte era terribilmente tagliente, dal flusso di parole bizzarre e sconcertanti che all'improvviso sgorgava dalla sua bocca. In molte delle cose che diceva c'era una sorta di noncurante autoironia che lasciava perplessi i suoi ascoltatori, incerti se prenderlo alla lettera o pensare esattamente il contrario. Era inevitabile quindi che circolassero sul suo conto le voci più contraddittorie, in primo luogo perché era straordinariamente riservato riguardo alla sua famiglia e alla sua situazione, e ancor più perché c'era la diffusa convinzione che a quell'epoca tutti i giovani stessero diventando maoisti. Qualcuno, con aria saccente, affermava di aver saputo che Tridib apparteneva a una famiglia ricca e potente, che suo padre era un diplomatico figlio di un giudice agiato e che suo fratello era un brillante economista, lavorava alle Nazioni Unite e viveva all'estero. Ma ancor prima che costui finisse di parlare, si levava una voce scettica che diceva: «Dove vivi, sciocco? Pensi che siamo arrivati tutti nel becco di una cicogna per credere a tutto ciò? Non lo sai che è sposato, ha 3 figli e vive con la madre vedova in uno slum dalle parti di Santospur?» Quando avevo circa 9 anni, ci fu un periodo in cui Tridib rimase così a lungo lontano dai suoi punti di ritrovo in Gole Park che i frequentatori abituali cominciarono a chiedersi che cosa gli fosse successo. Io ero l'unico a saperlo, perché mi ero fermato a casa sua, come facevo spesso in quel periodo, un pomeriggio mentre mi recavo dal mio insegnante di matematica. Ciò avvenne all'epoca in cui Tridib mi stava raccontando, a puntate, la storia del suo viaggio in Inghilterra. Come al solito, leggeva disteso su una stuoia nella sua camera all'ultimo piano della casa, con una sigaretta che bruciava lentamente in un portacenere al suo fianco. Quando gli dissi che la gente di Gole Park chiedeva sue notizie, portò un dito davanti alla bocca. «Shh», disse, «devi stare zitto. Sai una cosa? Credo di aver scoperto la collinetta dove i re della dinastia Sena seppellivano i loro tesori. Se il governo la scopre, porterà via tutto. Non far parola di tutto questo con nessuno e non venire a trovarmi per un po', potresti essere pedinato dalle agenti segreti». Ero atterrito, stringevo in petto il mio segreto ogni qualvolta mi chiedevano sue notizie. «Se n'è andato», dicevo, «è sparito». Finché una sera, tornando dal parco, venni a sapere che era ricomparso a Gole Park. Tornai indietro e lo trovai seduto in uno dei suoi luoghi preferiti, i gradini di una vecchia casa, circondato dai suoi conoscenti. Semi nascosto tra le gambe di qualcuno, gli feci un cenno con la mano, ma era intento a rispondere alle loro domande e non mi vide. «Dove sei stato tutto questo tempo, Tridib? Sono passati 3 o 4 mesi». «Sono stato via», lo udì rispondere annuendo segretamente dentro di me. «Ma via dove?» «Sono stato a Londra, in visita a dei parenti». Il suo volto era serio, la voce ferma. «Ma quali parenti?» «Ho dei parenti inglesi per via di matrimonio, una famiglia di nome Price. Ho pensato di andare a trovarli». Ignorando i brontolii scettici, disse loro che era stato ospite della vecchia Mrs. Price, che era vedova. Suo marito era morto da poco. Viveva a nord di Londra, aggiunse, in Leamington Road, al numero 44, e la fermata della metropolitana era West Hampstead. Mrs. Price aveva una figlia di nome May. «E com'è?» chiese una voce. «Sexy?» Rifletté un momento e poi disse di no. Non era sexy. Almeno non nel modo in cui di solito si intende. Aveva una corporatura robusta, con spalle larghe, e non era molto alta. Non era bella e neppure graziosa, non secondo i canoni comuni, perché aveva una faccia solida e squadrata. «E cosa fa?» sghignazzava qualcuno. «Fa la lotta libera o la parrucchiera?» «È una studentessa», disse Tridib, o almeno una specie di studentessa. Studia musica al Royal College, suona l'oboe e un giorno o l'altro entrerà in un'orchestra. Fu allora, credo, che non riuscii più a trattenermi. E feci strada in quella foresta di gambe e urlai: Tridib, ti sbagli! Ti ho visto il mese scorso, ti ricordi? Eri nella tua camera, disteso sulla stuoia e fumavi una sigaretta, stavi cercando... Ci fu uno scoppio di risa ed esclamazioni. Imbroglione, bugiardo, ti sei inventato tutto, non sei stato da nessuna parte. Tridib non sembrava affatto turbato né dalle mie parole né dalle loro risate. Rideva anche lui alzando le spalle allegramente. Se credete a tutto quello che vi dice la gente, meritate che vi si dica qualsiasi cosa. Chinandosi verso di me mi pizzicò con forza una guancia. Non è così? Disse con uno sguardo interrogativo, mentre gli occhiali brillavano alla luce del lampione. La sua calma creò una barriera di imbarazzo alle risa e ai commenti di quanti lo circondavano. Ora sembrava che Tridib li avesse resi vittime di qualche tortuoso scherzo privato. C'era un'aspra ostilità nelle loro voci quando si allontanò. Ero furioso con me stesso per aver esposto Tridib alla loro derisione. «Non sapete neppure di che cosa parlate!» gridai. Avevo urlato con tutte le mie forze, perciò mi udirono. Continuando a gridare, raccontai loro la verità così come la conoscevo. Dissi che Tridib era realmente stato a Londra molti anni prima, quando era un bambino con i suoi genitori. Erano andati laggiù perché suo padre doveva sottoporsi a un'operazione che non poteva essere fatta in India. Avevano dovuto andare benché fosse il 1939 e sapessero che poteva scoppiare una guerra. Suo fratello, Jatin, era rimasto a Calcutta con i nonni perché era più grande e non poteva assentarsi da scuola per tanto tempo. E sì, esisteva una famiglia di nome Price che viveva a West Hampstead, ma non erano parenti, erano vecchissimi amici della famiglia di Tridib, perché il padre di Mrs. Price, Lionel Trisosen, era vissuto in India quando gli inglesi erano qui, e lui e il nonno di Tridib, che era stato un uomo molto importante, giudice presso l'alta corte di Calcutta, erano amici. Molto tempo dopo che Lionel Trisosen era tornato in Inghilterra, sua figlia aveva sposato un uomo che era stato suo insegnante al college, che tutti chiamavano Snipe, perché il suo nome era S.N.I. Price. Quando Mrs. Price aveva saputo che il padre di Tridib doveva essere operato, aveva spedito un telegramma in cui diceva che dovevano andare ad abitare da lei a Londra, perché aveva una casa molto grande e aveva deciso di prendere comunque dei pensionanti. Ed era vero che aveva una figlia di nome May, ma era una bambina quando Tridib era stato a Londra e, per quanto ne sapevo, da allora non l'aveva più rivista. E Mrs. Price aveva anche un fratello, Alan, che era stato in Germania prima della guerra. Tacqui. Ero esausto. È una versione persino migliore di quella di Tridib, disse qualcuno con una risata cavallina. È tutto vero, gli gridai di rimando. Se non mi credete, chiedete a... Tridib? Insinuò una voce e le risate raddoppiarono. Mi aprì un varco fra di loro e corsi giù per tutta la strada e poi su per i due piani di scale fino al nostro appartamento. Ero in ritardo di un'ora e la nonna era molto arrabbiata. Con il suo tono controllato da direttrice di scuola, mi chiese dove fossi stato e, poiché non rispondevo, alzò una mano, la tirò indietro e la lasciò ricadere sulla mia guancia. «Dove sei stato?» chiese di nuovo e questa volta spifferai che ero stato giù all'angolo. Mi schiaffeggiò ancora una volta con molta forza. «Non ti ho detto che non devi andare laggiù a sprecare il tuo tempo? Il tempo non è fatto per essere sprecato, il tempo è fatto per il lavoro». Incontrai May Price per la prima volta 2 anni dopo, quando venne in visita a Calcutta. L'incontro successivo avvenne 17 anni più tardi, quando fu io a recarmi a Londra.